Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, Focus è chiaramente ha continuato ad andare in onda e così farà con la programmazione estiva fino alle 18 e poi dal 1 settembre torneremo alla programmazione tradizionale fino alle 18.30. Dicevamo dei temi di questa settimana, anche oggi la settimana si apre con il tema della crescita, o meglio non crescita economica. Nel senso che da un lato, ne parleremo più avanti, Palazzo Chigi ha smentito le voci che erano presenti oggi su molti giornali di una trattativa in corso, né pubblica né segreta, dice Palazzo Chigi, con l'Europa, il rinvio al pareggio di altri 3 anni, la possibilità appunto di ottenere uno sconto in base però a delle riforme messe in cantiere, in alcuni casi anche già operative. Dicevo, Palazzo Chigi smentisce le trattative con l'Unione Europea sui conti dell'Italia, smentito anche il piano taglia debito, e ha detto, le fonti di Palazzo Chigi dicono, l'Italia farà la sua parte e rispetterà il vincolo del 3% senza aumentare la pressione fiscale. E poi continua Palazzo Chigi, non esiste un problema Italia in Europa, esiste un problema dell'area euro che l'Italia contribuirà ad affrontare. Questo alla luce anche del dato della settimana scorsa sul PIL tedesco, calato dello 0,2% trimestre su trimestre. Però a questo proposito oggi è intervenuta anche la Banca Centrale Tedesca e dice, nonostante il passo falso nel secondo trimestre e le incertezze legate alle crisi internazionali, l'economia tedesca resta solida e la tendenza resta positiva grazie anche alla crescita dei consumi interni. Poi però la Bundesbank sottolinea che vi siano dei rischi sulle prospettive della crescita tedesca, dovuti questi rischi soprattutto all'ambito internazionale. E non si capisce se si riferisca più a rapporti con la Russia e l'Ucraina oppure alla debolezza dell'intero continente dell'area euro. Di questo parleremo in apertura, parleremo anche però, come avevo annunciato, avremo un'intervista con quello che io definisco il diavolo, cioè chi rappresenta l'industria mondiale del tabacco. È un settore produttivo anche questo, ma ne parleremo anche perché dal 1 agosto è scattato un nuovo aumento sulle accise delle sigarette. Siamo tutti d'accordo, per carità, nessuno si lamenta, però è interessante anche capire come il mondo del tabacco, che non può fare pubblicità, non può sponsorizzare, non può fare marketing, non può fare nulla, si muove in questo contesto, anche perché proprio recentemente è stato annunciato un investimento importante in provincia di Bologna da parte della Philip Morris. E ripeto, in questi casi è inutile, uno la può pensare come vuole, ci mancherebbe, sul tabacco, il tabacco fa male, lo sanno anche i bambini, lo ripeteremo, però sempre di investimenti si tratta, è un'attività assolutamente legale e faccio anche notare che è sottoposta a dei vincoli, giustamente, di pubblicità negativa, di avvertimenti, di sanzioni in caso di mancato rispetto, che altri settori non hanno. Chi vi parla da sempre copre con questo programma anche il Vinitaly, quindi sappiamo benissimo quanto conti l'apporto del settore vitivinicolo italiano, dei liquori. Abbiamo avuto ospite anche più di una volta l'amministratore delegato della Campari. Faccio notare che non esiste paragone tra il trattamento che viene dato al produttore di tabacco con chi invece produce alcolici. Non voglio mettere sullo stesso piano due cose, ma faccio solo notare che non si è mai vista su una bottiglia di alcol la scritta l'alcol fa male e può generare il coma etilico, per esempio, come invece viene per le sigarette. Detto questo, cerchiamo di capire e di analizzare un altro settore produttivo collegandoci alle due notizie, una l'investimento fatto in provincia di Bologna, l'altro quello che invece scontenterà i fumatori, l'aumento delle accise di 2 centesimi a pacchetto per finanziare il decreto valore cultura del governo Letta. La borsa, come sempre, l'avvio di settimana più 0,60% per Milano, meno forte il rialzo rispetto a Parigi che fa più 1,30, Francoforte più 1,60, Londra più 0,80, l'America più 0,90. Molto bene oggi Finmeccanica più 4,40, Autogrill più 2,90, Popolare Emilia Romagna più 2,60 come Jux, Mediobanca più 2,30, Azimut più 2,20 come Boots Unicem, il 2% lo guadagna World Duty Free e anche Prismian e CNH Industrial. Bene anche Intesa San Paolo più 1,80 e Mediolanum pure, ed Exor più 1,40, negativa G-Tech dell'1,70%, Moncler dello 0,80, Unipolsai dello 0,50%, euro su dollaro a quota 1,33,65, quindi sempre forte ma meno, diciamo, su livelli di maggior debolezza rispetto agli ultimi mesi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente come sempre, le altre notizie in breve. Allora, al di là della Bundesbank, vedo c'è chi vorrebbe una nuova rubrica in Focus Economia. Dacci oggi il nostro Widmann quotidiano, che è il presidente della Banca Centrale Tedesca. No, non mi manca, non ne sento la mancanza, onestamente, però dati sull'economia internazionale, per quello che riguarda la bilancia commerciale dell'intera area euro e quindi l'export, la differenza tra quanto esportiamo come area euro e quanto importiamo, c'è un surplus, quindi un attivo delle esportazioni rispetto alle importazioni di quasi 17 miliardi a giugno. È calato comunque l'export rispetto a maggio dello 0,5%. Volete sapere giustamente di come, su come vada il nostro spread? È rispetto al Bund tedesco, il BTP italiano a 10 anni è a 163 punti, quindi sostanzialmente stabile. C'era stata quella leggera ripresa dello spread a 170-172 dopo il dato sul PIL. Il BTP italiano a 10 anni rende sul mercato secondario chiaramente il 2,63%, che è comunque un minimo storico, quindi dal punto di vista di quanto costi l'Italia finanziare il suo debito, raramente abbiamo visto un periodo così favorevole. Vedo anche molti messaggi sull'intervista del ministro Padoan alla BBC4. Abbiamo la parte, un pezzo, diciamo, ampio di questa intervista che faremo ascoltare dopo, e già oggi sui giornali trovate la maggior parte delle aperture dei giornali sono dedicate a questo, e a questo o chiaramente alla fine del viaggio di Papa Francesco in Corea. Ma comunque Padoan ha detto che ci si aspetta per il 2014 una crescita molto inferiore. Benissimo, ne prendiamo atto. Modestamente era un po' di settimane che lo dicevamo, ormai le stime sono 0,2-0,3 se va bene, c'è addirittura chi stima 1,0, ma insomma quello sarà l'incremento minimo. Ci vuole tempo perché le riforme sulla crescita abbiano le riforme attuate abbiano un impatto sulla crescita, sostiene sempre il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. E poi quello che alcuni giornali hanno chiamato l'affondo alla Banca Centrale Europea: tutti gli attori in campo facciano la loro parte. Vuol dire che per la BCE deve essere coerente nel portare l'inflazione nuovamente vicina al 2%, che è una cifra ragionevole ma molto lontana dai livelli attuali. Ormai insomma, l'area euro, se non è in deflazione, è sicuramente a un'inflazione pari a zero, il che vuol dire che per alcuni settori siamo già in deflazione. Le rateizzazioni con il fisco, siamo all'Italia, chiaramente record di rateizzazioni con il fisco nel mese di luglio. La nota arriva dalla stessa Equitalia: sono state registrate 156.000 richieste di rateizzare, con una media settimanale pari a circa il doppio di quella dei primi sei mesi del 2014. Praticamente in questo momento ci sono attive 2.400.000 rateizzazioni, che valgono complessivamente 26 miliardi e 600 milioni di contributi. E sempre sulle rateizzazioni, oltre i due terzi, il 77% riguarda persone fisiche, il restante 23% società e partite IVA. Il 70% di queste rateizzazioni riguarda debiti fino a 5.000 euro, Un altro 26% riguarda debiti con il fisco tra i 5.000 e i 50.000 euro e il 3% oltre i 50.000 euro. La Lombardia guida la classifica delle regioni dove sono arrivate il maggior numero di richieste di rateizzazioni, 384.000, pari a 5 miliardi e mezzo. Segue il Lazio con 300.000 richieste per 3 miliardi e 7 e la Campania con 265.000 con pari a 3 miliardi di euro. La vicenda Telecom, ne parleremo nel corso dell'aggiornamento, del commento sui mercati finanziari. Alcuni di voi ci chiedono novità, non ci sono novità ufficiali sul titolo. Quello che si fa notare da più parte, dato il titolo oggi è fermo, proprio fermo allo 00, ma il gruppo Telecom starebbe lavorando un'offerta da 7 miliardi di euro da presentare ai franchisi di Vivendi per l'acquisto dell'operatore brasiliano di telefonia fissa, ma fa anche internet e pay TV, che verrebbe poi fuso con Team Brasil, che è già chiaramente di proprietà di Telecom. L'operatore si chiama GVT e Telecom offrirebbe però ai francesi il 20% delle sue azioni, quindi Vivendi, i francesi, diventerebbero l'azionista di riferimento del gruppo e si punta quindi a battere la concorrenza degli spagnoli di Telefonica, che anche loro sono interessati al gruppo brasiliano e sono pronti a pagare 4 miliardi di euro più il 12% di Team Brasil, perché Telefonica è anche il primo azionista in uscita di Telecom Italia, controlla infatti il 46% di Telco, che è la società che controlla poi Telecom Italia. Verrebbe da dire col vecchio detto, diciamo, Francesco I, Carlo V, Francia o Spagna, purché se non si magna in questo caso, ma purché si compri e si rafforzi la parte brasiliana. Chiaramente lo scontro è tutto sul Brasile, che è un'area a grandissima crescita, ed è ovvio a questo punto che è difficile, a molti mi stanno chiedendo perché gli spagnoli vogliono uscire. Beh, insomma, se tu sei in una società che sei l'azionista di riferimento di una società che a sua volta fa concorrenza a te stesso in Brasile, cioè il conflitto, diciamo, di interesse è palese. Ecco perché lo spostamento dalla Spagna verso la Francia. Due notizie, anzi tre ancora. Qualche idea noi la stiamo fornendo da un paio d'anni a qualunque commissario alla Spending Review, raccontando come non riusciamo a valorizzare i nostri tesori oppure come riusciamo benissimo a sprecare i nostri soldi. Due notizie molto brevi, però la dicono lunga. Una riguarda il tesoro, appunto, del patrimonio culturale italiano, l'oro nero, l'oro italiano che però va estratto. Faccio notare che qualcuno forse si ricorderà la vicenda della Dea di Morgantina. Era stata una statua del 400 a.C. che era stata rubata nel 78 illegalmente a Morgantina, appunto nel centro della Sicilia, e trasferita al Polghetti Museum. Dopo una trattativa lunghissima, gli Stati Uniti ridiedero la Venere all'Italia nel 2011. Ebbene, mentre al Polghetti Museum a Malibu riuscivano a fare 400.000 visitatori l'anno, ora non vuole fare la stessa cosa, ma a Morgantina non si è andati oltre i 15.000 l'anno, si è arrivati anche a 21.000 nel 2011 e 15.000 invece nel 2012-2013. Ma la cosa singolare è che il museo riuscirà d'ora in avanti ad aprire soltanto dalle 9 alle 13.30 nei giorni festivi, che naturalmente quando uno va al museo non ci va durante l'orario di lavoro. E questo perché, e tra l'altro praticamente, se non cambierà qualcosa, un vero e proprio miracolo, dovrà tenere sbarrate le porte da qui alla fine dell'anno in tutti i giorni non feriali, quindi adesso riesce a farlo ad agosto. Perché? Perché i 13 custodi in servizio hanno quasi tutti esaurito il monte ore di festivi fissati dalla regione e quindi si è trovato un escamotage raschiando un po' di festivi e quelli che mancavano. Si riesce a tenere aperto dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 a un'ora prima del tramonto, dopodiché sarà aperto solo la mattina e poi, se non cambiano le cose, sempre chiuso durante i festivi. Faccio notare appunto che da 400.000 persone nessuno vuole arrivare al livello di Malibu, ma insomma da 400.000 a 11.000 ce ne passa e ce ne corre. E poi mi chiedo come sia possibile non avere, insomma, una mobilità interna in quelli che sono i 20.000 dipendenti della Regione Sicilia e trovare il modo di tenere aperto questo museo, vista la battaglia che fece l'Italia proprio contro il Paul Getty Museum. Ma sempre restando in tema di costi e anche raffronti con l'estero, io non voglio entrare nella polemica di a che cosa servono i 12 deputati italiani eletti all'estero. C'è chi ritiene che sia sbagliato eleggerli. Fu una lunga battaglia per riconoscere il voto anche agli italiani all'estero, e va bene così. Mi chiedo perché noi dobbiamo però pagare, l'abbiamo fatto l'anno scorso, 850.000 euro di voli per questi 12 deputati, anche perché se non risiedono nell'area europea hanno diritto alla business class. Voi direte, giusto che vogliono in business, non lo so. Dico semplicemente che 850.000 euro sono tantissimi, anche perché già i voli pagati agli altri 620 deputati costano 8.300.000 euro l'anno, che sono 13.000 euro a testa. Però quelli dei deputati che risiedono all'estero costano 70.000 euro a testa. Allora, è chiaro che quando uno come l'onorevole Marco Fedi del PD torna a Sydney 10 volte l'anno e voli in business, fai presto a raggiungere questa cifra. Tra l'altro, questi deputati, oltre ai voli illimitati, perché possono prendere quanti ne vogliono da dove risiedono, e quindi Rio piuttosto che Sydney a Roma, hanno anche un budget a disposizione di 20.000 euro l'anno per i viaggi nella circoscrizione di elezione. Ora voi capite che questa è un po' una follia, perché c'è una circoscrizione che va dal polo sud all'Africa, all'Asia, all'Oceania, cioè uno praticamente potrebbe per motivi di circoscrizione elettorale fare Bangkok, Malindi, Pechino, Maldive. Ora io capisco il collegio allargato per risparmiare, ma mi sembra un po' troppo. Se no facciamo il collegio emisfero nord e il collegio emisfero sud e ne leggiamo due e la chiudiamo lì. Sono 830.000 euro l'anno di voli. Ultimo tema, quello dei dirigenti della pubblica amministrazione. Anche qui ne abbiamo parlato decine di volte, però in discussione non è solo il fatto che comunque i dirigenti pubblici italiani guadagnino in media 10 volte lo stipendio di un dipendente, e soprattutto quello che è in discussione è il fatto che questa cifra valga il doppio dei colleghi francesi e inglesi. Notoriamente i dirigenti della pubblica amministrazione in Francia e in Inghilterra non valgono molto, e addirittura due volte e mezzo i tedeschi. Anche lì la Germania naturalmente è un paese dove i dirigenti della pubblica amministrazione sono inefficienti. Ma non basta, perché questi stipendi sono ottenuti in larga parte grazie ai bonus per i risultati e la produttività. E anche qui vorremmo fornire un'idea al governo, al commissario Cottarelli, al ministro Madia. Insomma, è possibile che continui questa abitudine, però non voglio essere offensivo, di premiare praticamente tutti i dirigenti col bonus? In Liguria 9 super dirigenti della regione hanno ricevuto tutti valutazioni al top. Tutti, cioè 9 su 9, mamma mia, devono venire dall'ENA in Liguria a studiare come funziona la nostra pubblica amministrazione. Hanno beneficiato di un incremento di oltre il 20% dello stipendio base, 140.000 euro lordi l'anno. L'anno scorso anche tutti i dirigenti della regione Campania hanno maturato lo stesso diritto e quindi tutti hanno ottenuto il massimo della prestazione. La regione Lombardia, lo scorso 30 maggio, 27 dirigenti liquidati premi per 20.000 euro in media testa. In Emilia Romagna quest'anno si spenderanno 3.200.000 euro per i premi dirigenti, 600.000 euro in più dell'anno scorso. Allora, o ci stiamo pigliando in giro, o voi mi dite che 600.000 euro in più di premi per un totale di 3.200.000 euro siano in linea con quello che sta passando il paese, dirigenti della pubblica amministrazione. Massimo rispetto, ma voglio dire, hai 140.000 euro lordi, ma date i premi a chi li merita, se si riesce a introdurre il merito nella pubblica amministrazione. Anche perché una campionessa della corsa al bonus è stata l'ex presidente del Lazio, della regione Lazio, Renata Polverini. Nel 2012 predispose per la regione delle schede di valutazione per i dirigenti e per accedere ai premi, no? Le schede di valutazione, ma erano molto interessanti queste schede di valutazione, perché non era nemmeno prevista la casella per il voto insufficiente, come se tuo figlio a scuola potesse prendere da sufficiente in su, ma voglio dire, tutti promossi. È l'estate, uno va in vacanza, torna, ma tanto in questo paese apparentemente le cose non cambiano, cambiano con una difficoltà incredibile, ma non resteremo sempre a segnalarle, batti e ribatti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo col meteo, poi intervistiamo il numero uno della Philip Morris per capire come si stia muovendo il mondo del tabacco, che vuol dire piaccia o non piaccia, tanti dipendenti e investimenti anche nel nostro paese. E poi arriviamo alla borsa e alla nota di Palazzo Chigi con anche commento sull'analisi della Bundesbank. Focus Economia. Eh sì, parliamo del diavolo, perché insomma ogni volta che si cita il mondo del tabacco, noi lo facciamo perché è un settore industriale come gli altri, ma insomma alcuni ascoltatori ci scrivono: ma lei non deve dire che fuma, non deve dire che quello è un settore industriale. È un settore industriale a tutti gli effetti, piaccia o non piaccia, è anche legale, lo Stato ci carica sopra, se non ricordo male, qualcosa come il 90% di tasse sul prezzo finale, anzi no, forse il 76% di tasse sul prezzo finale. Per cui è legale, e poi c'è scritto pure che fa male, per cui penso che da questo punto di vista il settore del tabacco, oltre che essere legale, abbia anche un'attenzione giusta, giustissima, degli avvertimenti che altri settori che fanno male. Adesso voi sapete che noi seguiamo i vinitri, il mondo del vino e dell'alcol, almeno non ho mai letto su una bottiglia di whisky: attenzione, porta la cirrosi epatica se consumato in alte quantità. Eppure non è che bersi una bottiglia di whisky, ma intervistiamo la Campari. Lo dico perché già vedo molti messaggi, abbiamo intervistato tutti i produttori di vino e sappiamo tutti che il vino è una grandissima cosa, un grandissimo prodotto del Made in Italy, però insomma, no, non è che proprio ti faccia solo bene. Eppure immagino che nessuno si sognerebbe di scrivere su una bottiglia di vino: attenzione, se lo bevi danneggia il tuo sistema nervoso. Prevengo subito la critica: non stiamo difendendo l'industria delle sigarette, io poi sarei anche in conflitto di interesse totale, per cui essendo un fumatore sto solo dicendo che, così come quando parliamo dell'aerospazio e difesa parliamo anche di chi produce armi per la difesa, quando parliamo del mondo del tabacco, che si sta comunque spostando, di questo ragioneremo anche sulla parte della cosiddetta sigaretta elettronica, parliamo di un settore produttivo a tutti gli effetti, tant'è che Philip Morris International ha annunciato lo scorso 10 gennaio un investimento di 500 milioni di euro, che visti i tempi non è poca cosa, per la costruzione nell'area di Bologna, a Crespellano per la precisione, di uno stabilimento pilota, primo nell'Unione Europea e nel mondo, adesso vedremo di capire se anche a livello mondiale, per la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto. Che poi vorrebbe dire le sigarette elettroniche, se ben capisco, definiti a basso rischio per la salute. Tra l'altro mi interessa anche capire come si riesce a stare in un mercato quando tu praticamente non puoi fare giustamente pubblicità, non puoi fare marketing, non puoi fare promozione, non puoi sponsorizzare niente. Interessante capire insomma come si stia sul mercato. Allora, grazie per averci raggiunto in studio, all'amministratore delegato di Philip Morris Eugenio Sidoli. Buonasera. Philip Morris Italia, buonasera. Buonasera a lei. Dicevo, sono in conflitto di interessi, ma cercherò di essere il più obiettivo possibile, fermo restando che io purtroppo, dico purtroppo, cioè, lei praticamente dovrebbe darmi non so quanto in questi anni per tutto quello che vi ho fatto guadagnare. Allora, prima cosa, l'investimento a Bologna, a Crespellano, poi arriviamo invece al tema più complessivo di come... Mi dico una cosa, ma lei fuma? Non fumo, no. Questa è bella, no? L'amministratore delegato di Philip Morris non fumi, già, insomma, è come dire che l'amministratore delegato della Campari non beva, però va bene così. Perché non fuma? Non fumo perché non mi piaceva, ho provato e non l'ho trovato particolarmente... interessante. Vabbè. Ma questo non le ha creato nessun problema nel lavorare da Philip Morris, mi sembra, no, di capire. Ho fatto carriera 21 anni, ho lavorato anche nel marketing, ho avuto fortuna e probabilmente anzi non è stato mai necessario fumare, avendo gente che lo fa e che si è sempre occupata di spiegarmi qual erano le differenze tra un prodotto e l'altro per poterli gestire nel settore competitivo in cui opero. Ecco, detto ciò, poi vorrei capire come si fa a fare, cioè che, se esiste un marketing alla Philip Morris, visto che non potete per legge praticamente fare nulla. Ma andiamo intanto sull'investimento, visto che questo è un programma che parte sempre dall'economia. Mezzo miliardo di euro per costruire, intanto a che punto è l'investimento? E poi che cosa farete lì esattamente? Allora, l'investimento è partito in gennaio, quando l'abbiamo annunciato. È costituito da due fasi, una fase in cui stiamo terminando la costruzione di quello che abbiamo chiamato centro di formazione, training center, che è una piccola unità di produzione, circa 6.500 metri quadrati, che farà volumi di produzione per i primi mercati test che incominceremo ad attivare a partire dalla fine di quest'anno. Questo è già terminato, a settembre incominciano le produzioni e poi le spedizioni in Giappone e in Italia, che sono i primi due mercati in cui lanceremo questo prodotto innovativo. Ma che è una sigaretta elettronica? È fondamentalmente una sigaretta elettronica che si differenzia dalle sigarette che tutti conoscono perché già sul mercato per il fatto che ha il tabacco e non ha una cartuccia di nicotina. Quindi il prodotto assomiglia molto a una sigaretta convenzionale, si inserisce in un device, in una specie di pipa elettronica. Di bocchino elettronico. Di bocchino elettronico. Non è un bocchino, il bocchino in realtà è il filtro. È come una pipa che scalda il tabacco dall'interno, rilasciando questo aerosol che sa di tabacco, e quindi il fumatore, contrariamente a quello che aspira solo nicotina, in questo caso ha anche il piacere di inalare un aerosol con sapore di tabacco. Ma questo vuol dire che voi, come industria del tabacco, perché insomma la Philip Morris penso che siete il leader a livello mondiale, avete 180 paesi, 91.000 dipendenti, 53 stabilimenti di produzione in 33 paesi, fate 870 miliardi di sigarette ogni anno, sì. Che non le fumo tutte io, per inteso, con i marchi famosi Marlboro, che è più famoso al mondo, Bond Street e quant'altro. Però stavo dicendo, questo vuol dire che l'industria del tabacco, di cui voi rappresentate e avete la leadership, si sta spostando sempre più su prodotti, diciamo, leggeri, chiamiamoli così? L'industria del tabacco credo che abbia posizionato il tema del rischio, che è notissimo nel prodotto del convenzionale, danno fisico, del diciamo. Danno alla salute, come un problema centrale da affrontare e al quale trovare una risposta attraverso prodotti che potenzialmente abbattono il rischio del fumare. E quindi da una parte, se dobbiamo salvaguardare il piacere di fumare, dall'altra parte dobbiamo ritornare al consumatore, che oggi è sicuramente pronto, anche e soprattutto in mercati maturi come quello in cui operiamo, a richiedere un prodotto che sia gustoso ma meno dannoso per la salute. È una sfida. La stabilimento di Bologna, che avete dove avete iniziato l'investimento da 500 milioni, a quante persone darà lavoro a regime? A regime sarà circa 600 persone di occupazione, per un volume equivalente di circa 30 miliardi di sigarette, rispetto agli 800. E in Italia quanti dipendenti avete? Oggi siamo 850 dipendenti. Allora, dicevo, investimento importante, abbiamo capito anche che l'abbiamo già notato, rispetto a 20, chi fuma purtroppo sa che rispetto a 20-30 anni fa non c'è paragone, andavano sigarette molto più forti, addirittura quelle senza filtro, mi sembra che perfino i francesi abbiano modificato le gitane e le gouloirs, storiche sigarette, diciamo, da legionario, ma insomma tutto sta cambiando verso una sigaretta il più possibile, non che faccia bene, non esiste, ma che faccia un po' meno male. Da questo punto di vista mi interessava capire però come vi ponete voi anche nei confronti della pressione fiscale. No, lo dico perché in questo paese, non solo, ma in questo paese in particolare, ogni volta che c'è una manovra da fare, e ce ne siamo accorti anche quest'estate, si va subito sul tabacco, anche perché colpire la parte alcolica, che pure ha una tassazione ma non così alta come in altri paesi, significherebbe fare un danno a migliaia di produttori sparsi sul territorio e quant'altro, mentre il tabacco, poi sono due o tre grandi player multinazionali che stanno zitti e accettano. Siamo passati, siamo arrivati al 76% e mezzo di pressione fiscale rispetto al prezzo del prodotto. Battete anche la benzina, che ha il 70% tra accise e IVA rispetto al prezzo del petrolio. E questo però, se ho ben capito, paradossalmente questi continui aumenti della pressione fiscale sulle sigarette hanno portato l'anno scorso a minor gettito per lo Stato. L'anno scorso sì, il gettito è calato di circa 700 milioni. Pur aumentando la pressione fiscale sulle sigarette. La pressione fiscale, l'ultima volta che la pressione è aumentata è stata con l'aumento dell'IVA, che nel caso delle sigarette si paga anche sull'accisa e quindi ha un moltiplicatore di 5. che ha portato ad un aumento dei prezzi esagerato in un momento soprattutto di crisi, e questo ha mandato in spirale volumi e gettito fiscale. Sembra quasi una curva di Laffer in qualche modo. È una curva di Laffer, tipicamente. Nel senso che superata una certa soglia, tu non ottieni più soldi come Stato, non incassi più soldi perché calano i volumi, e quindi tu tassi di più il pacchetto di sigarette ma ne vendi di meno, e infatti poi sono mancati l'appello 700 milioni di euro come gettito che non è arrivato alle casse dello Stato. Ma questo, secondo voi, è ovvio che se le chiedessi bisogna diminuire la tassazione sulle sigarette, lei mi risponde sì, per cui la domanda: perché invece chiedete che vi sia una componente fissa più alta nella tassazione? Chiediamo che la componente fissa dell'imposta cresca, la fissa batte sui volumi e quindi viene pagata da tutte le marche a prescindere dal prezzo. Riteniamo che fumare faccia male a prescindere dal prezzo che lei paga, no? Fumare a basso prezzo, fumare ad alto prezzo, fa male uguale. Questo è giusto. E questo diciamo la nostra aspettativa di avere un aumento nella parte che riguarda l'imposta sul consumo a volume, evidentemente ha due obiettivi. L'una è quella di fare in modo che tutte le sigarette contribuiscano in quota importante al gettito fiscale, a prescindere dai prezzi. Chi ha la forza di tenere i prezzi più alti già sta facendo uno sforzo anche in termini di disincentivo. La quota di sigarette a prezzo più alto è più bassa di quella a prezzo più basso, evidentemente. Certo. E il secondo motivo è perché l'imposta fissa assicura il gettito fiscale molto più che quella variabile. Quindi, se ho ben capito, il principio detto così a me convince, cioè siccome fa male fumare sia una sigaretta che costa un pacchetto che costa 3,50 euro sia un pacchetto che costa 5 euro, fa male uguale, non è che quello da 5 euro faccia meglio, ma non fa meglio neanche quello da 3,50 euro. Lei dice, se continua a essere così alta la componente proporzionale al prezzo nella tassazione, vai a punire come se facesse più male, diciamo, una sigaretta di qualità rispetto a una sigaretta che ha un prezzo più basso. È esattamente questo. Mentre negli altri paesi la componente fissa, cioè quello che tutti devono pagare, sia che tu faccia prodotto di fascia bassa o prodotto di fascia alta, è più alta. La componente fissa nella tassazione in tutti i paesi è più alta che l'Italia. L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa. Siamo sotto la media di 30 punti circa rispetto alla media europea. Rispetto alla media europea. E adesso c'è una parte che mi interessa così, proprio come strategie di impresa, nel senso che noi ragioniamo molto con gli imprenditori di qualunque campo e settore merceologico, la promozione, l'immagine. Allora, come si fa? Cioè, meglio, il vostro responsabile marketing è un uomo sostanzialmente o una donna disoccupata, nel senso, come si fa a fare attività di sviluppo quando tu non puoi fare pubblicità per legge, non puoi sponsorizzare per legge, non puoi fare marketing per legge, non puoi legare il tuo nome da nessuna parte, hai giustamente sui pacchetti scritto il fumo uccide, fa venire il cancro, così lo ripeto anch'io, può causare la cecità, la sterilità, tutto un insieme di cose, a mio avviso insomma va benissimo, va benissimo. Come si fa a fare, tra virgolette, promozione? È inutile che mi diciate, come vedo, che la promozione delle sigarette è un atto del diavolo, perché allora, ripeto, anche la promozione del whisky è un atto del diavolo, anche i farmaci e tutti i calmanti sono atti del diavolo, dipende come li utilizziamo, sti farmaci. Allora, sulla base di questo principio, non è che posso dire che gli antidepressivi o altri farmaci ansiolitici, visto che presi in quantità ti ammazzano, allora anche quelli non vanno bene, per cui stiamo calmi. Giustamente sulle sigarette c'è scritto provoca cancro alla gola, provoca cancro ai polmoni, aumenta la sterilità, aumenta la cecità, il rischio delle donne in gravidanza, di tutto. In alcuni paesi hai anche le foto del tumore alla gola, ma bisogna fare di più, se no rendetele illegali e però lo Stato non ci guadagna neanche un euro a quel punto. Detto questo, come si fa a fare promozione di un settore legale in cui però è impedito dalla legge di fatto promuovere? Allora guardi, noi operiamo in un mercato maturo con volumi in calo, in calo tendenziale, il volume cala mediamente tra il 3-4% ogni anno, e evidentemente l'industria compete sul volume che c'è in termini di quota di mercato. Quindi il mio lavoro, per chi fuma già, è quello di fare in modo che compri un prodotto del mio assortimento invece che il prodotto dell'assortimento di un concorrente. Promozione non se ne fa, promuovere vuol dire cercare di portare nuovi fumatori all'interno dell'industria. Noi lavoriamo su chi già fuma. Il contatto si svolge al 100% all'interno del punto di vendita oggi, che è l'unico spazio legittimato a far incontrare prodotto e consumatore. C'è la tabaccheria. Tabaccheria. Il punto di vendita è uno spazio fortemente regolamentato, ma all'interno del punto di vendita l'informazione commerciale minima per far sapere a un fumatore che c'è un prodotto nuovo oppure che è cambiato qualche cosa sul suo prodotto ci è permessa e quindi lì possiamo lavorare. E quindi lei mi sta dicendo l'unico nostro lavoro non è cercare nuovi clienti come fa qualunque tipo di gruppo in qualunque settore merceologico al mondo, ma è concorrere sulla torta che già esiste di fumatori. E che si restringe tutti gli anni. Il messaggio. Allora, un'altra cosa che ho dimenticato, per esempio le sigarette, giustamente sono vietate ai minori di 16 anni e sfido chiunque voglia fumare andare in una tabaccheria italiana, 15 anni forse, 18 addirittura, meglio ancora, 18 anni, io li ho superati da qualche mese, non me lo ricordavo, però, e giustamente in qualunque tabaccheria automatica ti viene chiesto un documento di identità e non ti vendono le sigarette in automatico. Faccio solo notare, ma non ce l'ho col settore dell'alcol oggi, figuratevi, abbiamo fatto 13 anni di Focus Economia Vin Italy, però faccio notare che qualunque ragazzino di 15 anni va in un bar, beve quel cavolo che vuole, non gli viene mai chiesta la carta d'identità e, se non ricordo male, c'è un limite di legge anche nel consumo degli alcolici, per cui, e non leggo sulle bottiglie vietato ai minori di 16 anni, non chiedono la carta d'identità se vai in un bar e chiedi un bianco, uno spritz e poi reggiamo del bungee drinking dei nostri ragazzini, che non vuol dire che io voglio, che non vorrei mai che mio figlio fumasse, lo dico molto chiaramente, sto solo dicendo non usiamo due pesi e due misure, tutto il male improvvisamente sul tabacco e l'alcol invece chi se ne frega, e non c'è un controllo che sia uno da nessuna parte se un ragazzo ha o no superato i 16 anni. Lei però come uomo, come individuo, si augura alla fine che il vostro settore così come è fatto scompaia, cioè che alla fine il tabacco non sia più un settore merceologico? Perché non, penso che lei non si auguri che i suoi figli fumino. No, io non mi auguro che i miei figli, che mio figlio fumi, mio figlio però fuma, e quindi anche se non me lo auguro lo fa comunque. Il settore è un settore maturo ed è un settore fortemente contrastato dalle politiche sociali legittime, secondo me. Da padre io credo che sia giusto quello che viene fatto all'interno dell'ordinamento. Personalmente credo nelle libertà di scelta e credo che gli eccessi di regolamentazione siano dannosi, in effetti, su anche legittime scelte o legittime politiche tipo quella contro il fumo. Presumo che nel corso dei prossimi 20, 30, 40 anni il settore continuerà a calare e la nostra sfida oggi è quella di convertire fumatori che hanno un rischio elevato a fumatori che hanno un rischio potenzialmente più basso, se questi prodotti di nuova generazione, su cui stiamo costruendo una fabbrica a Crespellano, avranno successo e sapranno offrire gusto ad un livello di rischio più basso. In bocca al lupo, come sempre facciamo, e in questo caso al ministro delegato di Philip Morris Italia, Eugenio Sidoli. Grazie mille. Ultima volta, è semplicemente un'operazione contro l'ipocrisia, nel senso che nessuno sta facendo l'esaltazione di niente, così come non esaltiamo l'acquisto di un carro armato quando intervistiamo l'amministratore delegato di Finmeccanica, e né di un missile quando intervistiamo e siamo leader mondiali nei siluri marini. Nessuno sta dicendo comprate le sigarette, così come nessuno quando intervista la Campari sta dicendo bevetevi lo spritz questa sera. Però no all'ipocrisia, per favore. E poi voglio dire, avete avuto la prima intervista da quando esiste questo programma in cui l'amministratore delegato si augura che il suo business finisca, nel senso che ha detto in qualche modo che non vorrebbe, suo figlio fuma, ma non vorrebbe che fumasse, e ritiene che l'intero mercato debba diventare qualcos'altro. Alcuni contestano il parallelo con gli antidepressivi. Ho solo detto, e poi la chiudiamo qua, che ci sono altri prodotti che, se assunti in quantità, hanno dei danni enormi. L'alcol è uno di questi. I farmaci, usavo l'esempio degli antidepressivi, sono un altro esempio, ma io vedo in televisione pubblicità in cui se hai mal di testa ti pigli una pastiglia, se sei giù te ne pigli un'altra, se vuoi fare il figo ti bevi quella cosa lì, addirittura quindi pompando l'idea che quella sia la soluzione di un problema, mai nessuno che dica attento che se hai mal di testa cerca di capire perché hai mal di testa, è inutile anestetizzarlo, c'è una grande tolleranza farmacologica, una grande tolleranza etilica, e ho solo fatto notare che al settore del tabacco si possono dare tante colpe, ma non quella di promuoversi, perché non lo può fare. Tutto qui, se vogliamo uscire dall'ipocrisia. Traffico. Focus Economia. ...17:49 minuti, va bene, c'è addirittura chi dice che sto facendo una crociata personale. Alcuni ritengono che non dovremmo proprio parlare del settore, neanche quando fa un investimento produttivo. Vabbè, uno la può pensare come vuole, vale anche per altri settori. Noi parliamo di tutti i settori invece legali in questo paese. La borsa e poi i conti pubblici italiani, rapidissimi. La borsa oggi, insomma, scambi ancora ferragostani, più 0,80% Milano, più 1,30 Parigi, più 1,70 Francoforte, più 0,80 Londra, più 1% l'America. Molto bene in questo, in chiusura Finmeccanica più 4, Pop Emilia Romagna più 3,20, Autogrill più 2,60, Iux pure, il 2,40 lo guadagna World Duty Free, il 2,30 Azimut e anche Buzzi Unicem, il 2,20 Mediobanca e CNH Industrial, il 2% Prismian, Mediolanum e la Pop Milano. Negativa G-Tech, meno 1,40, Moncler meno 0,80, Ferragamo meno 0,20%. Complessivamente buona la giornata. Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Io andrei a concentrarmi su Finmeccanica, Popolare Emilia Romagna e G-Tech. Sì, come dicevi tu, oggi la giornata è stata molto tranquilla visto il clima festivo. Finmeccanica è stata la migliore fin dall'avvio e il mercato spera che le attese di dismissioni annunciate ormai da molto tempo dal gruppo, in particolare quelle di Ansaldo Breda e di Ansaldo STS, possano finalmente essere realizzate. La scadenza per le offerte è il 29 agosto e le indiscrezioni parlano di Bombardier e Hitachi come i pretendenti in pole position per rilevare le società. Quanto alla Popolare dell'Emilia Romagna, sta continuando a recuperare terreno dopo che due settimane fa aveva accusato un forte tonfo dopo la pubblicazione dei conti semestrali, probabilmente a causa della vendita di un portafoglio di crediti deteriorati. Il mercato non aveva apprezzato la cifra a cui erano stati venduti. Per quanto riguarda G-Tech invece si tratta in primo luogo di realizzi, dato che il titolo aveva guadagnato moltissimo terreno nelle ultime due settimane, e inoltre è arrivata una notizia negativa dagli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, lo Stato dell'Illinois potrebbe terminare in anticipo il contratto con una controllata di G-Tech per la gestione delle lotterie dello Stato. Volete sapere di Telecom Italia, ma come ricordavi in apertura del programma, al di là delle indiscrezioni appunto di un'offerta da 7 miliardi da presentare ai francesi di Vivendi per acquistare GVT, l'operatore brasiliano di telefonia fissa, internet e pay TV, che verrebbe poi fuso con TIM Brasil, a quel punto Telecom Pro offre ai francesi il 20% delle sue azioni, Vivendi diventerebbe quindi primo azionista di Telecom, mentre Telefonica, che è in uscita da Telecom, è disposta a offrire circa 4 miliardi per GVT. Novità significative non ce ne sono e il titolo in borsa è rimasto fermo allo zero. Segnalo anche i migliori e i peggiori oggi: EMS più 25%, Gabetti più 20%, Media Contact più 8%, Cementir più 5,70%, Ansaldo più 4,5%. Fronte opposto invece: Digital Magics meno 5,60%, Leone meno 5%, Film Group meno 5%, Bioera meno 4,80%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. Mi attendo una crescita annuale più bassa di quella che indicano le cifre attuali. Questo però non modifica i piani del governo. Quello che cambia è che i tempi della ripresa in Italia, ma in generale in Europa, sono più lunghi rispetto a quanto previsto. Sfortunatamente, e non lo dico come una scusa, ci siamo tutti sbagliati. Governi e organizzazioni internazionali, tutti avevamo previsto una ripresa sostenuta già per quest'anno e sinora questo non è accaduto. Le riforme hanno un effetto sulla crescita, ma richiedono tempo e pochi trimestri non sono sufficienti. Tra marzo e giugno l'Italia ha avuto una contrazione del PIL dello 0,2% come la Germania, ma questo non dipende dal fatto che non siano state fatte riforme, ma da fattori di lungo periodo. Sono convinto che le riforme che stiamo attuando produrranno i loro effetti nei prossimi 2 anni. Così il ministro Piercarlo Padoan alla BBC 4 nell'intervista che oggi trovate su moltissimi giornali. Appunto, ci aspettiamo una crescita molto inferiore, e qui non c'è notizia, con massimo rispetto per il ministro, già l'avevamo capito, e le riforme introdotte avranno un effetto sulla crescita solo fra 2 anni. E poi la stoccatina, il colpo di fioretto, chiamatela come volete, alla Banca Centrale Europea di Mario Draghi. È bello l'inglese anche di Padoan, allo stesso livello di quello di Draghi, devo dire, alcuni dicono migliore, questione di gusti, però insomma buono l'inglese anche di Padoan, almeno due ministri, un ministro e un presidente della BCE che l'inglese lo parlano bene. Prima di tutto, quello che vorrei vedere è che ciascuno faccia la sua parte. Nel caso della BCE, questo significa perseguire con impegno e coerenza l'obiettivo di riportare l'inflazione attorno al 2%. Si tratta di una cifra ragionevole, ma che è molto lontana dai livelli attuali. Bisogna dunque fare di più per raggiungerla. D'altra parte, i governi devono realizzare riforme strutturali in tutti i paesi dell'area euro, coordinando le loro agende nel corso del semestre europeo. È poi indispensabile incrementare gli investimenti sia pubblici che privati, sfruttando le risorse esistenti e coinvolgendo più capitali privati incentivandoli. Ultimo, ma non meno importante, serve sviluppare ulteriormente il mercato unico, un aspetto che riguarda non solo i membri dell'euro, ma tutti i paesi dell'Unione, compresa l'Inghilterra. Dino Pesolo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A te l'analisi, visto che oggi Palazzo Chigi smentisce la richiesta del governo italiano, una trattativa con l'Unione Europea per allentare i vincoli di bilancio, e dice rispetteremo il tetto del 3%. Cos'è, pretattica? Ma è la conferma che la linea del governo resta sostanzialmente quella che sia Renzi che Padoan hanno delineato nelle scorse settimane. E sostanzialmente questo, c'è un primo passaggio il 29 agosto, quando il Consiglio dei Ministri approverà il decreto sblocca Italia, la riforma della giustizia civile e il provvedimento sugli insegnanti della scuola, i cosiddetti quota 96. Poi c'è un secondo passaggio il giorno successivo, vale a dire il 30 agosto, quando il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo affronterà il nodo delle euronomine. E quella sarà l'occasione per cominciare ad avviare una discussione sulle possibili ricette, appunto, da mettere in campo per affrontare la congiuntura negativa che investe sia l'Italia ma anche la Francia e l'Italia. È un Consiglio europeo che secondo Renzi sarà cruciale. Poi a partire dall'Ecofin informale di Milano, in programma il 13 settembre, ci sarà l'avvio vero e proprio della trattativa, e qui nulla di nuovo per la verità, per rendere esplicito quel concetto, il miglior utilizzo della flessibilità, che è emerso nel Consiglio europeo di fine giugno. Il tutto, e questa è l'idea appunto di Renzi, di provare a chiudere il semestre di presidenza italiana a dicembre con un pacchetto di proposte concrete che siano concordate con la Commissione europea, per provare, come dire, a forzare un po' sul fronte della congiuntura negativa. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo un compito molto impegnativo con la prossima legge di stabilità. Saranno almeno 20 miliardi perché servono per stabilizzare il bonus IRPEF e per onorare scadenze già previste dalla legislazione vigente. E in quella sede dovremmo cominciare ad avviare appunto una discussione con Bruxelles per provare a verificare se questi margini di flessibilità ci saranno o no. E quindi grazie Dino Peso, che avremo ospite. Le date sono 29 agosto, 30 agosto e poi 13 settembre. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente. Focus Economia.